English Bit di Giulia Crivelli. Walk. He often told me he wanted to walk away from it all. An intimate portrait of a troubled prince. Una volta mi raccontò che avrebbe voluto lasciarsi tutto alle spalle, un ritratto intimo di un principe tormentato. Era questo il titolo della prima pagina, caratteri cubitali, del Daily Mail di qualche giorno fa. Un articolo sviluppato all'interno e firmato dalla Royal Correspondent del quotidiano, Rebecca English. Tutti i quotidiani britannici, infatti, hanno un giornalista, o forse anche più di uno, che si occupa solo della famiglia reale. La parola che ci interessa è to walk away, phrasal verb regolare, to walk away, walked away, walked away. Il significato è letterale, andare via da qualcosa o qualcuno, allontanarsi in modo deciso e definitivo, lasciarsi alle spalle, in altre parole. To walk si presta a molte altre forme di phrasal verbs e idioms. To walk in on somebody or something significa entrare in una stanza e sorprendere qualcuno, in genere disturbando quello che stava facendo. To walk into significa infilarsi. I realized I had walked into a trap. Mi resi conto che ero caduto in trappola, ma si può usare anche in altre situazioni. I was doing shopping and I walked into my mom. Ero in giro per negozi e mi sono imbattuta in mia mamma. To walk off significa abbandonare in modo brusco. To walk out è un modo informale per dire mettersi in sciopero, ma anche abbandonare qualcuno. How could she walk out on her kids? Come poteva abbandonare i suoi bambini? To walk over significa sopraffare. She always lets him walk all over her. Lascia sempre che lui la faccia sentire una nullità, potremmo dire in italiano. Come sostantivo possiamo dire let's go for a walk, andiamo a fare due passi. She's taken the dog for a walk, ha portato fuori il cane. The office is a 10-minute walk from here, l'ufficio è a 10 minuti a piedi da qui. It's only a short walk to the beach, per arrivare alla spiaggia il tragitto è breve. Walk of life significa mestiere, posizione nella società. She has friends from all walks of life, ha amici di tutti i tipi. Tornando al verbo, ci sono altri idiom, alcuni dei quali simili a quelli che usiamo in italiano. It's not a difficult exam, you will walk it. Non è un esame difficile, per te sarà una passeggiata. You can talk the talk, but can you walk the walk? Sei molto bravo a parole, ma nei fatti? To walk tall è l'equivalente del nostro volare alto.